in primo piano. La Fiat e la politica anche oggi sono i due grandi temi. La Fiat e la politica, perché la Fiat è stato presentato il piano nuovo e la politica oggi è il giorno del confronto o chissà scontro tra Fini e Berlusconi. Due holding per la nuova Fiat, il titolo d'apertura del Sole 24 Ore. Fiat Marchionne separa l'auto, apre così Repubblica. Per la stampa la Fiat si sdoppia e rilancia. Per il Messaggero la Fiat si divide in due. Il Riformista, Fiat Corporation. La sfida invece è per l'unità, con viene così declamato Fiat in questo modo dall'unità: Fiat, flessibilità italiana, altrimenti tagli. Mentre c'è chi sceglie la politica, il Corriere della Sera, Schifani a fondo su Fini, c'è un'intervista interessante al presidente del Senato Schifani. Il Giornale, basta liti, andate a lavorare sul PDL, e Libero, Fini allo spiedo. Il Fatto Quotidiano invece apre su un'inchiesta sulla camorra e il veleno della camorra, vale a dire gli inquinamenti ambientali in Campania, sud la grande discarica. Comunque, Fiat, tra l'altro vi preannuncio alle 9, Oscar Giannino è il tema di 9 in punto e dunque ne parlerà. Che cosa... La notizia più importante: Fiat si divide in due entro l'anno. Lo leggiamo a pagina 3, Laura Galvagni. Ieri l'amministratore delegato Marchionne ha deciso di eliminare quella che per tanti anni è stata una spina nel fianco, così definita, del gruppo, annunciando la separazione dell'auto da camion e macchine agricole. Avverrà questo spin-off entro la fine dell'anno. È come se dalla vecchia Fiat ne emergessero due nuove. Da un lato, appunto, Fiat Industrial con Iveco, CNH, la parte industrial e marine di Fiat Powertrain, e dall'altra parte, insomma, tutto quello che è il comparto auto: Ferrari, Maserati, Magneti Marelli, Texid, Comau, Fiat Powertrain Technologies e poi anche la partecipazione in RCS. Tutto controllato dalla famiglia Agnelli tramite Exor, la famiglia Agnelli che manterrà sia sull'uno che sull'altro business ovviamente il controllo, e la stessa presa. L'intenzione sarà di mantenere il presidio almeno per l'intera durata del piano. C'è anche il direttore del Sole Gianni Riotta che intervista Gianluigi Gabetti. Iachi e l'avvocato, lo chiama sempre così Iachi John Elkann, vale a dire con questo diminutivo. Iachi e l'avvocato, temperamenti diversi, il nonno più estroverso, John Elkann più riservato, ma simili per il senso del dovere, la disciplina, un'intelligenza particolare. Così parla Gianluigi Gabetti, una vita passata dagli anni della guerra alla finanza, da New York a Torino, sempre accanto a Gianni Agnelli. Parla appunto a Gianni Riotta, trovate l'intervista a pagina 3. L'avvocato, dice Gabetti, amava i passaggi di generazione senza scosse, purtroppo però i troppi lutti fino alla morte di Umberto hanno richiesto dolori e aggiustamenti radicali. Che Fiat sarà la Fiat globale di Marchionne ed Elkann, chiede Gianni Riotta. Al centro ci sarà l'idea che la finanza serve a produrre industria e lavoro. Le ristrutturazioni in corso in Italia e nel mondo rispondono a questo criterio. Nessuno fugge dal nostro paese. Fiat è un gruppo italiano. Il suo presidente è un giovane italiano. Ma Chrysler ci riapre il mercato americano. E il Brasile sarà protagonista del nuovo mondo industriale. Russia, India e Cina devono vedere attivo il nostro marchio nel XXI secolo. E alla fine il consiglio: non hanno bisogno dei miei consigli Marchionne ed Elkann. Però sanno che l'industria del mondo globale deve adattarsi ogni giorno al mutamento senza soste. Una lezione che l'avvocato ripeteva a John, e lui l'ha imparata davvero bene, direi, davvero bene. E poi c'è tutto l'aspetto del piano che è stato presentato. Le auto prodotte salgono a 1,4 milioni, cioè il cuore del piano industriale presentato ieri da Marchionne è questo. Nell'arco del piano saranno più che raddoppiati i volumi di produzione di auto in Italia. Rispetto alle attuali 650.000 vetture, si arriverà nel 2014 a 1,4 milioni di vetture. Questo scrive Giorgio Pogliotti a pagina 5 del Sole 24 Ore. Vogliono essere ridefiniti gli accordi, ha detto Marchionne, con i sindacati su una nuova organizzazione del lavoro, con però l'amministratore delegato di Fiat che fa sapere di avere pronto anche un piano B che per sua stessa missione non è molto bello, sottolineando che Fiat ha la capacità di produrre altrove. E poi ci sono tutti i dettagli, come hanno reagito i sindacati. Anche secondo l'Unità, a pagina 6, i sindacati aprono al piano parliamone, c'è solo si registra subito un'ostilità da parte della FIOM. Si tratta su un piano nuovo, ma sia chiaro che per noi è decisivo il consenso dei lavoratori. Repubblica è andata a questo proposito a sentire con Diego Longhin i lavoratori durante le pause, insomma i cambi turno. Molti dicono per noi non cambia molto, per noi il problema è soprattutto la cassa, gli stipendi. Qualcuno teme l'arrivo di una maggiore flessibilità. Sul manifesto, in prima pagina, Vauro fa una grande vignetta, mette addirittura un operaio della Fiat con due impronte delle suole di scarpe sulle natiche, spin-off, la Fiat raddoppia, una pedata per Chiappa. Molto graffiante e polemico Vauro. Comunque alle 9 Oscar Giannino ne parlerà, approfondendo insomma quelle che sono le novità per quello che riguarda Fiat. Riguardo e rimanendo sui temi economici, io voglio segnalare due cose. Sul Foglio troverete oggi due intere colonne in prima pagina firmate Carlo De Benedetti, vale a dire l'editore di Repubblica. Caro Tremonti, giù le tasse, per favore. C'è un detto diffuso tra gli economisti americani, scrive De Benedetti, per cui anche un gatto morto rimbalza, come dire che dopo ogni caduta in economia segue sempre una risalita, ma se il gatto è morto la risalita sarà effimera. De Benedetti poi fa un'intera, lunga, approfondita analisi, tra l'altro partendo anche dal recente articolo che avevamo letto sul Sole 24 Ore di Guido Tabellini e Giorgio Barbanavaretti, secondo la quale, dice anche De Benedetti, è inutile dire che la situazione va bene. La situazione in Italia non va bene. Le cose per l'economia italiana vanno male e non da oggi. Sui salari, sul prodotto interno lordo, sulla spesa pubblica, eccetera. Questa è la realtà. Perciò leggo con sofferenza, dice De Benedetti, le affermazioni di chi sostiene che le riforme prioritarie per l'Italia siano quelle istituzionali, importanti. Ma certo, sarebbe opportuno che in primo piano tornasse la riforma, le riforme economiche. Più ricerca, più formazione, più education, certamente, meno burocrazia e più legalità, non c'è dubbio. Magari efficienza del settore pubblico, tutto giusto e condivisibile, ma credo che non ce la faremo se non saremo in grado di dare un vero e proprio shock di crescita al nostro paese. E lo shock potrà venire solo con una poderosa riduzione delle imposte che oggi gravano sul lavoro e indirettamente sulle imprese. Serve un abbattimento massiccio, generalizzato delle imposte sulle persone fisiche e le società, un intervento radicale nell'ordine di molti punti percentuali su tutte le aliquote. Ecco allora l'appello di De Benedetti, caro Tremonti, giù le tasse per favore. D'altronde su Libero trovate un qualcosa che è uno studio della CGA di Mestre, a pagina 15, l'Italia ha il record delle tasse statali. È una ricerca che mette a confronto i regimi tributari di diversi paesi europei, Italia, Germania, Francia e Spagna soprattutto. Il confronto, per Andrea Scaglia, che ne scrive su Libero, è davvero impietoso. Sentite qui alcuni numeri tirati fuori dalla CGA di Mestre. Per quel che riguarda il centralismo impositivo, cioè quanti soldi vanno allo Stato centrale e quanti invece agli enti locali. Qui da noi, ogni 100 euro versati di imposte, 77,5 finiscono nelle casse dello Stato, solo 22,5 agli enti locali. Il confronto è impietoso. In Germania, per esempio, le entrate centrali sono il 49,4%, quindi la maggior parte, oltre il 50%, resta invece alle istituzioni locali. E la pressione tributaria, tra l'altro, in Germania è del 23,9%. Poi stesso discorso per la Spagna: allo Stato finisce il 50,7%, dunque metà e metà, e la pressione tributaria è al 21,1%. Perfino in Francia, dove agli enti locali resta una quota fiscale inferiore a quella italiana, ecco, almeno su questo la Francia è diciamo peggio di noi se uno la vede in ottica federalista, però la pressione fiscale si mantiene sul 26,6%, dunque inferiore alla nostra. Insomma, il confronto secondo dal punto di vista delle tasse per la CGIA di Mestre, scrive Libero, è impietoso. Abbiamo il record delle tasse statali. Insomma, il piatto dell'economia è questo che trovate sui giornali. Oscar Giannino alle 9 e la Fiat. L'altro tema è la politica, per l'appunto. Come detto, è il Corriere che fa l'intervista più interessante. Francesco Verderami a colloquio con Schifani, il presidente del Senato, che dice: parlo non da presidente del Senato, ma da dirigente del Popolo della Libertà. Con Gianfranco Fini mantengo un ottimo rapporto, ma ecco qui, se fa politica lasci la presidenza della Camera. Sarà cofondatore del PDL, ma è presidente della Camera. Se fa un sistema correntizio nel partito, non vedrei male che lasciasse Montecitorio ed entrasse nel governo. Poi, come ha detto Berlusconi, sono una metastasi le correnti, e così dice anche Schifani, sarebbe un modo surrettizio di costituire gruppi autonomi senza dichiararlo. Chi lo facesse, cioè se si fanno correnti, si porrebbe fuori dal PDL, il voto anticipato tornerebbe a essere ineluttabile. Dunque Schifani, che a pagina 5 del Corriere ribadisce, se Fini fa le correnti, secondo me è ineluttabile il voto anticipato. Insomma, molto duro Schifani, che poi parla della trazione leghista, che sarebbe il pomo della discordia, ricordiamo, tra Berlusconi e Fini. Figlia di un'azione politica e programmatica, frutto dell'azione di governo a Roma e soprattutto sul territorio, ma non mi pare, dice Schifani, che la Lega faccia una politica delle poltrone, ha solo 3 ministri su 23. Insomma, uno Schifani che comunque dice: Fini, se fa politica lasci la presidenza della Camera, e se fa le correnti si va al voto. Oggi staremo a vedere, tutto è pieno di articoli su cosa succederà e retroscena a questo congresso. Parleranno per 8 ore un po' tutti. Berlusconi ha detto appunto le correnti sono metastasi, pare che anche abbia detto Fini è un ospite, non è neanche iscritto al partito, è iscritto a parlare ma non potrà votare. Ieri si sono incontrati Fini e Berlusconi, occasione pubblica, il ricevimento dell'ambasciatore di Israele in Italia, una freddissima stretta di mano. Alla cerimonia per Israele solo una gelida stretta di mano per Repubblica, pagina 7. Parla tra l'altro al Corriere della Sera anche Giuliano Ferrara, che... io ho detto, è considerato consigliere di Fini, e lui la butta sul ridere a crepapelle. Ma che consigliere di Fini, ormai porto a spasso la mia cagnetta. Ieri un tipo mi ha fermato e ha detto: ma lei è Ferrara? E io gli ho detto: no, non sono io, è la sua ragazza, te l'avevo detto io che Ferrara era morto. Insomma, Fini che si sminuisce, Ferrara che si sminuisce, ma poi fa questa intervista a Maria Teresa Meli e dice: Berlusconi, come tutti noi, ha una natura ambivalente. Da una parte è il colmo del liberalismo e della tolleranza, è l'uomo del mi consenta, del doppio petto, della pasticca per rinfrescare l'alito, delle regole per il marketing, è il seduttore universale. Poi c'è un Berlusconi più arcigno, nervoso, insicuro, aggressivo. Questo è quello che sta manifestando nel caso Fini. Fini invece ha una notevole antipatia personale, ha un freddo, è il contrario del Berlusconi a cui piace tanto piacere, e quindi si dispiace perché Fini, che è un impasto di complessi di inferiorità e superiorità, roba da sofà freudiano, non lo tratta in maniera amicale. Ma insomma, Giuliano Ferrara dice: Berlusconi non faccia gesti da padronali, il suo animus è quello, ma lo deve superare e comporre un accordo sensato e poi subirne anche le conseguenze. Chissà come andrà a finire. Pare che Fini ieri abbia detto, secondo la stampa: e se la minoranza non si adegua alla maggioranza, che fa Berlusconi? Ci fa fucilare? Insomma, il clima è questo. Francesco Storace su Libero, uno che Fini lo conosce molto bene. Voglio dare un consiglio a Berlusconi. Silvio, attento, non concedere nulla a Fini, altrimenti chiederà sempre di più e alla fine diventerai un suo ostaggio. Fini poi era partito con tutti i colonnelli, ora si ritrova con Granata e Bocchino. Che brutta fine, dice Storace. E che accadrà ora? Ma non lo so, sembra di essere su Scherzi a parte. Io sto in platea, mi godo lo spettacolo, che è pure gratis. Questo Storace. Insomma, come andrà a finire? Chi lo sa? Vedremo. Questo, la politica si interroga su questo. Pare che anche Berlusconi abbia fatto una telefonata molto dura a Italo Bocchino, dicendogli: tu non vai a Ballarò questo martedì, non vai in TV, vi rendete conto che andate lì e spaccate il partito? E Bocchino gli ha detto: io rappresento la minoranza del PDL e in TV ci vado. e continuerò ad andare. Se cercherà di impedirmelo, il problema è suo. Allora, questa, la politica, oggi c'è questa giornata importante, la direzione del PDL, vedremo come andrà a finire. Allora, la politica si interroga anche molto sul tema delle intercettazioni, questa legge che dal parto lunghissimo che è ora in discussione alla Camera, anzi al Senato. Di Pietro ha detto le intercettazioni non saranno pubblicabili, le leggeremo in Parlamento, così rimarranno agli atti parlamentari. C'è Luigi Ferrarella, oggi in prima pagina del Corriere della Sera, fa un articolo molto duro, insomma, a spiegare qual è il cuore dei divieti a cui dovranno far fronte, se passa la legge, così come editori, direttori, giornalisti. Una combotte da 65.000 e 400 a 465.000 euro si strozza la trascrizione e pubblicazione per stralci di qualunque atto giudiziario, anche se non più segreto. Perché? La conferma è che la nuova legge ribadisce le attuali regole, si sanziona il reato del giornalista che prima della fine dell'udienza preliminare pubblica in forma anche parziale gli atti, anche quelli non più coperti dal segreto. Qual è la novità? Che però si vincola tutto alla legge, alla normativa 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tradotto, si dovrà pagare per i giornali che pubblicano queste cose da un minimo di 64.500 euro fino a un massimo di 465.000 euro, con due conseguenze micidiali, scrive Ferrarella. La prima è quantitativa, insomma basta vedere l'entità del salasso, quanto può incidere sui bilanci dei giornali. La seconda è qualitativa. Se dalla scelta di dare o no una notizia dipenderanno la salute patrimoniale del giornale e in alcuni giornali la stessa sopravvivenza economica della testata, è chiaro che l'ultima parola non l'avrà più il direttore ma l'editore, colui che poi dovrebbe rimetterci soldi e colui che potrebbe quindi diventare, secondo Ferrarella, il padrone in redazione, cioè colui che dovrà decidere dove il giornalista ha preso la notizia, come, la fonte, così entrerà a gamba tesa sulla autonomia redazionale. Una tassa per dare le notizie è il titolo del commento di Ferrarella, molto critico di questo aspetto della legge in discussione sulle intercettazioni. Della scuola trovate molto, perché il dibattito è un po' sotto traccia, ma in realtà Formigoni ha fatto un'intervista in questo senso, il ministro Gelmini, che alla prima occasione pubblica dopo la gravidanza è riapparsa e ha detto sì, si può aprire agli albi regionali, alle graduatorie regionali degli insegnanti. Questo per evitare anche questo, no, spostamento continuo, insegnanti che cambiano, le scuole ogni anno si spostano da regione all'altra, nord-sud, creando anche un distacco dalla realtà dei propri allievi, insomma un problema anche perché ogni anno, ogni due anni gli allievi perdono il contatto con il professore al quale sono abituati, col proprio sistema, insomma, di studio. Gelmini e la disunità d'Italia, ne scrive Michele Ainis oggi, costituzionalista sulla Stampa, è critico per la verità e dice appunto: il ministro Gelmini ha introdotto la disunione dei docenti con una legge sugli insegnanti regionali che ammetta in graduatoria soltanto chi risiede in quel determinato territorio. Ainis l'attacca anche dal punto di vista della Costituzione, insomma ci sono vari articoli che impongono invece una cosa diversa. E poi si dice: ma è il federalismo, si dà il caso che nella più antica nazione federale del mondo, con un'idea vale a dire gli Stati Uniti, con un'idea del genere ti prenderebbero a sassate, non fosse altro perché ogni americano cambia stato in media 4 volte nella vita. C'è chi è a favore, c'è chi è contro. Noi vi chiediamo, e questo è il dibattito, siete favorevoli a una scelta, alle graduatorie per la scelta degli insegnanti su base regionale, non più nazionale, per evitare appunto che gli insegnanti emigrino in certi casi, proprio ogni anno cambino scuola con problemi per gli studenti? Dovete votare su radio24.it o il sole24ore.com. Approfondiremo alle 8.30. Le segnalazioni conclusive, c'è molto sullo schiaffo che avrebbe ricevuto, insomma, che ha ricevuto morale Bertolaso, perché l'Aquila ha negato, nonostante la giunta dell'Aquila lo avesse proposto, una commissione apposita di consiglieri ha negato la cittadinanza onoraria a Bertolaso. L'Aquila, schiaffo a Bertolaso, ne scrive La Stampa, mentre Libero la tratta così in prima pagina: che vergogna. L'Aquila è la stessa città che ha dato la cittadinanza onoraria a Silvia Baraldini, condannata per terrorismo negli Stati Uniti, ma a Bertolaso no. E poi una notizia che c'è sul Corriere e basta: Riina, Totò Riina, il cardinale Tettamanzi, perché è rinchiuso in provincia di Milano, mi aiuti a chiedere la grazia. Pare che questa sia la richiesta che ha fatto al cappellano del carcere di Opera, dove è andato a trovarlo, il plurergastolano capomafia, condannato in omicidi Falcone, Borsellino e non solo. Ha chiesto, pare che voglia chiedere a Dionigi Tettamanzi mi aiuti per chiedere un provvedimento di grazia. Lo trovate, Giovanni Bianconi, a pagina 29 sul Corriere della Sera. Moltissimo anche su Mario Balotelli, la Gazzetta intitola così, The End, cioè la fine. Balotelli Inter, ecco il retroscena della rottura, Gene Gnocchi, Balotelli non parla, dopo la scenata di martedì si è chiuso in casa con il suo neurone. Allora, 7:53 minuti, ci fermiamo.